Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tre giornate dovevano essere, tre giornate sono state per Samuele Eto'o, ma sono cinque quelle per il leccese Cevanton, che ha perso la testa domenica in Lecce-Sampdoria. Ma oggi torna la Champions ed è da qui che partiamo con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Partiamo da qui e partiamo da Benitez, perché si moltiplicano i sostenitori di Benitez, o meglio i non detrattori, o meglio i realisti, quelli che sostengono che nel calcio spesso si ha diritto alle attenuanti generiche. Beh, non è certamente che a Benitez possano mancare. Qual è la tua teoria in proposito? Poi te ne segnalo un'altra statistica eventualmente. Ma io anche faccio parte di questo partito, di questa fazione, cioè di coloro che sostengono che le colpe di Benitez esistano, ma che siano delle colpe tutto sommato emendabili in futuro. E sinceramente aspettarsi dall'Inter lo stesso comportamento dell'anno scorso era impensabile. Non dimentichiamoci che il cammino dell'Inter in Champions League l'anno scorso fu anche peggiore, perché l'Inter ebbe bisogno di un'autentica impresa a Kiev alla penultima giornata per poi avere la possibilità con Rubin Kazan all'ultima di passare. E quindi diciamo che Benitez almeno in Champions ha fatto meglio di Mourinho per quanto riguarda questo girone. È chiaro che adesso però Benitez deve battere il Twente, impresa non impossibile evidentemente. La differenza tra le due armate a disposizione è che Benitez ha a disposizione i fratelli stanchi di quelli che aveva José Mourinho. E poi qualcuno potrà dire che tutti gli infortuni sono colpa di Benitez, possiamo discuterne fino all'infinito, tanto nessuno avrà mai la soluzione in mano. Detto questo, io insomma, ho osservato il cammino e il lavoro di Benitez negli anni scorsi, e ad esempio lui la prima stagione a Liverpool alla fine del campionato terminò con 37 punti di distacco dal Chelsea, cioè fece un campionato completamente anonimo, prese la squadra a metà stagione da Gerard Houllier, non riuscì mai di fatto a trascinarla in una zona interessante di classifica, al punto che, caso più unico che raro, fu una squadra che vinse la Champions League, i tifosi del Milan soprattutto lo ricorderanno bene, ma che non si qualificò per la edizione successiva. Infatti il Liverpool arrivò quinto ed ebbe bisogno di un'interpretazione estensiva del regolamento da parte dell'UEFA per giocare poi un super preliminare, partì addirittura ai primi di luglio, e per poi una situazione che fu compromettente per la successiva stagione del Liverpool, perché fece arrivare la squadra completamente stanca. Quindi, unito al fatto che mi sembrano poco credibili tutte le alternative che leggo, tenuto conto che stiamo parlando di un allenatore fortemente voluto, molto desiderato da molte altre formazioni, cioè oltre a quella nerazzurra, ecco, io trovo che cacciarlo adesso, con tutto quello che vediamo, cioè, l'Inter effettivamente in questo momento, con le forze che ha da mettere in campo, merita la classifica che ha. Cioè, questa classifica rispecchia perfettamente il valore che l'Inter può esprimere in questo momento. Forse andava messo in preventivo, tu hai già ricordato questo suo esordio non particolarmente brillante alla guida del Liverpool. Forse da parte della società, ma anche della tifoseria, certo non era facile reduce da tre vittorie su tre, andava messo in preventivo un avvio non facile di stagione. Mi fa notare Franco Piantanida, che ha studiato le partenze di Benitez al Liverpool. Dopo 13 giornate al suo esordio era meno 11 la vetta, l'anno dopo era meno 12, l'anno dopo ancora era meno 16. Poi nell'estate 2007 si capisce, arrivano Torres, Mascherano, Babel, Benayoun eccetera, e allora la sua distanza dall'Arsenal in classifica a quel punto è minima. L'anno dopo addirittura è a pari merito primo col Manchester United, per poi, quindi probabilmente c'è anche proprio una costante in questo. Qui ha avuto le disavventure che sappiamo, perché se no avrebbe avuto una squadra più forte delle altre. È chiaro che là si misurava con Manchester, Chelsea e Arsenal, però può darsi che nel suo DNA ci siano le partenze lente. Sì, è anche vero Gigi che lui la Premier League non l'ha mai vinta, e quindi i detrattori di Benitez questo glielo possono imputare. Può essere vero tutto, io trovo che davvero prendere in mano l'Inter dopo la gestione Mourinho e dopo il triplete fosse un'impresa titanica da parte di chiunque, e credo che solo un allenatore dell'esperienza, del carisma, un carisma diverso naturalmente da quello di Mourinho e della sua caratura internazionale, possa avere la possibilità di portare fuori l'Inter da questi problemi. Non dimentichiamoci che c'è anche un altro fattore che non si era proposto prima, e cioè il mondiale per club, che è un un trofeo che ha perso certamente molto valore, ha perso certamente molto appeal, ma rimane un qualcosa che alla famiglia Moratti in bacheca piacerebbe mettere. Quindi questo, diciamo, che può allungare la vita di Benitez, nel senso che cacciare un allenatore 15-20 giorni prima di un appuntamento del genere è un pericolo altissimo, non avendo certezze di nulla, ovviamente. Certo. Se invece Benitez dovesse vincerlo e andare agli ottavi di finale, come credo sia abbastanza normale pensarlo, a quel punto Benitez potrebbe avere già alzato due trofei, cioè il Mondiale per Club e la Supercoppa italiana, essere in corsa per la Champions League, tutto sommato a un distacco non incolmabile, anche se importante in campionato. A quel punto mandarlo via sarebbe molto difficile. Il problema, scrive Diego, è che l'Inter gioca proprio male, non si vede un gioco organizzato al di là degli interpreti. Adesso sì, Diego, però bisogna anche vedere chi gioca, perché fino a quando invece hanno giocato insomma, diciamo, una metà abbondante di titolari, l'Inter giocava persino meglio dello scorso anno, sì, in certe fasi, e certamente rischia di qualificarsi, sta per qualificarsi senza i patemi dello scorso anno in un girone più debole, ma tutto questo poi lo si vedrà. La giornata di Champions ovviamente per noi è incentrata, quella di stasera, su Auxerre Milan e sulla trasferta e sulla partita in casa della Roma col Bayern. Sì, io sono stato ieri sera, ero anche in conduzione, e quando ho ascoltato le parole di Van Gaal ho veramente avuto il dubbio che Van Gaal ci stesse prendendo tutti in giro, perché ha parlato della Roma come di una squadra catenacciara. Se lui parla del campionato italiano o dell'attitudine a volte di alcune squadre italiane a difendersi e contrattaccare, secondo me non è più neanche così, forse ha più in mente la nazionale che le squadre di club, ma comunque mi è sembrata un'analisi, oltre che ingenerosa, completamente diversa dalla realtà. Alcuni osservatori del campionato tedesco mi dicono che Van Gaal si consideri talmente superiore che spesso non studia nemmeno le avversarie, e questo può anche essere sia vero. Detto questo, la Roma è in una fase molto buona, secondo me è una fase proprio di crescita, di forma e di condizione, e a parer mio, con un Bayern di Monaco ormai qualificato, veramente non ho molti dubbi sul fatto che la Roma questa sera la partita la vinca. Mi incuriosisce molto la prestazione di Menez, se dovesse giocare come credo dal primo minuto al posto di Totti, perché insomma, siamo sempre stati abituati a vedere Totti in campo nelle partite importanti della Roma, e se non era in campo era per o squalifico o per infortunio. Ecco, pensare a Francesco Totti in panchina, però abile e arruolabile in una partita decisiva, porta a pensare che il tempo stia passando e che a questo punto veramente Ranieri abbia decisamente sempre più in mano le redini di tutto, perché insomma, ci vuole anche un po' del coraggio per dire a Francesco Totti che stasera starà in panchina. Riprendiamo tra poco con la vigilia del Milan. Nel frattempo Xavier Zanetti, nella conferenza stampa di vigilia dell'Inter, ha detto: Eto'o ha commesso un grave errore, la sua assenza sarà un danno per la squadra. Intervallo, strade. Ajax, Real Madrid, ma soprattutto Auxerre Milan. Come si delinea questo girone, Fabio? Ma si delinea che Milan vincendo avrebbe nessunissimo problema e neanche tanto bisogno di ascoltare il risultato di Amsterdam. L'Ajax è ancora in corsa, l'Auxerre tornerebbe in corsa soltanto vincendo. Secondo me è una partita più pericolosa di come la stiamo dipingendo, un po' perché comunque prima o poi il Milan potrebbe aver bisogno di rifiatare, non è il caso di farlo adesso naturalmente, e comunque avrebbe una ulteriore partita, quella con l'Ajax in casa, per chiudere la pratica. Quindi diciamo che il Milan è largamente favorito per portare a casa gli ottavi di finale, però insomma sarebbe meglio qualificarsi questa sera, magari puntando anche alla voglia che José Mourinho abbia di arrivare vergine al classico, cioè di non perdere mai e di vincere ad Amsterdam, cosa peraltro non impossibile. Poi bisogna vedere, il classico si gioca lunedì prossimo, secondo me c'è ancora un ragionevole lasso di tempo per poterci pensare, quindi non penso a un Real Madrid condizionato da questo, penso a un Real Madrid tranquillo che giocherà in scioltezza, tranquillo del fatto di essere già abbordato agli ottavi di finale, quindi teoricamente molto più pericoloso. A proposito di classico, che lunedì prossimo credo insomma, catalizzerà l'attenzione di tutti, l'attenzione e anche la visione di tutti gli appassionati di calcio, ci si accosta a suono di triplette, mi pare, no? I tre di Ronaldo all'Athletic Bilbao, i tre di Messi all'Almeria, questi due sembrano, se la salute li assiste, sembrano destinati a battere tutti i record di gol nella Liga. Sì, loro per, per il record di gol, e quindi il Piccicci quest'anno diventa non soltanto, sarà evidentemente a far loro, non c'è dubbio su questo, ma la quota sarà, sembrerebbe altissima. Devo anche dire che rischiamo di avere due squadre che possono, non dico toccare entrambi i 100 punti perché è quasi impossibile, ma arrivarci veramente molto molto vicino. Questo secondo me può diventare a questo punto anche un problema, nel senso che un campionato che si possa decidere nello scontro diretto d'andata e ritorno non è un campionato credibile, è un campionato che a livello puramente teorico poi in realtà secondo me non si deciderà nel doppio classico, ma si deciderà proprio nelle partite dove in teoria i punti e uno li considera già presi. Poi dipenderà molto dai cammini che loro avranno in Champions League. Io davvero penso però che in questo momento Barcellona e Real Madrid siano di gran lunga le squadre più forti d'Europa, però è anche molto presto, siamo a novembre e la Coppa si assegna a maggio, e quindi è veramente presto per dire qualsiasi cosa. Il classico è già il fatto che si disputi di lunedì, è qualcosa di particolare, ci sono le elezioni in Catalogna, trovo che da un punto di vista televisivo sia un vantaggio perché comunque lo svincola da tutti i campionati nazionali e forse dà anche la possibilità a più persone che magari quella sera avrebbero voluto vedere la loro squadra del cuore di godersi uno spettacolo, che poi sarà uno spettacolo, io non ne sono certissimo perché ho il sospetto che Mourinho cercherà di imbrogliare un po' la partita, nel senso di metterla molto dal punto di vista tattico, però cioè, sono talmente tanti gli interpreti bravi che qualcosa di bello ci sarà di sicuro. Fabio, ci arriva dall'Olanda un'altra lezione, io chiuderei con questo argomento oggi, e cioè noi siamo stati molto critici con il calcio olandese ai mondiali dopo la finale per via di quell'atteggiamento violento e direi anche abbastanza antisportivo con cui la nazionale olandese si giocò una finale mondiale. Poi avevamo preso atto con stupore addirittura del grande fair play del CT olandese che ha escluso De Jong per un fallo gravissimo commesso in una partita del suo club in Inghilterra. Adesso arriva la notizia che l'Ajax ha fermato Suarez, attaccante uruguaiano ma la stella dell'Ajax di Amsterdam, per aver morso un avversario ad una spalla. Allora, al di là della singolarità e della follia dell'episodio, non vorrei che dall'Olanda ci arrivassero una serie di lezioni di etica. Ma questa è una lezione. Io adesso spero che non si arrivi ai morsi anche nel campionato italiano, perché sinceramente quando ieri ho preso la notizia, da un lato mi sono un po' messo a ridere, ma dall'altro mi sono un po' preoccupato, perché insomma stiamo veramente continuando ad alzare l'asticella. Detto questo, vorrei vedere quante società italiane, al posto di cercare mille cavilli, mille precedenti, certo, mille situazioni simili, oppure andare subito a dire sì, però quella volta a voi il rigore non l'hanno dato, piuttosto certo, che sto facendo degli esempi abbastanza sì, chiari. Il famoso benaltrismo, no? Ben altro hanno commesso i nostri danni, certo. Esatto, oppure insistere sulla correttezza di un giocatore, per carità, Eto è un giocatore riconosciuto anche per la sua correttezza, direi da oggi no, perché comunque una testata uno corretto non la dà, come si era detto di Krasic della Juventus, come è abbastanza normale che le società tentino di tirare l'acqua al loro mulino, ecco che dall'Olanda ci arriva questa lezione. Certo, avrei voluto, proprio lezione per lezione, che l'Ajax lo fermasse anche per la Champions, visto che lo fermi, fermalo per tutto. Comunque, insomma, anche qui siamo nel benaltrismo, perché noi guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, invece è chiaramente mezzo pieno, perché è un gesto certamente nobile, certamente serio, ed è anche un segnale, secondo me, perché quando le società fanno capire ai propri giocatori che c'è un confine, c'è un limite, che il buon nome della società non può passare anche da queste loro bizze, secondo me siamo nel campo del vero fair play che ogni tanto bisognerebbe anche riscoprire, insomma, da questo punto di vista. Una domanda finale la porge Vincenzo, che scrive: Barça e Real sono molto più forti delle nostre grandi o le piccole spagnole sono molto più scarse delle nostre piccole? Vincenzo, secondo me ha ragione. Sono valide tutte e due. Io trovo che il livello medio del nostro campionato sia superiore a quello spagnolo, cioè nel senso che squadre come il Palermo, come il Napoli, come le squadre che comunque stanno nella parte sinistra della classifica, ma direi anche quelle nella zona centrale, secondo me sono preferibili. In Spagna davvero, se vai oltre Siviglia, Valencia e Villarreal e Spagnol, fai un po' fatica a trovare è un calcio diverso, ma è un calcio che non, secondo me, può essere perdente nei confronti con quello italiano in linea teorica, no, dipende in linea teorica, però, perché poi noi andiamo in Europa League con le seconde forze, sì, e facciamo abbastanza ridere, fermo restando che Barça e Real oggi sono sono un paio di giri più forti, ma basta vedere come è andata la doppia sfida tra Real Madrid e Milan, secondo me. Adesso, al di là poi della parità raggiunta a tempo scaduto dal Real, ma la personalità, il tipo di gioco, quello che ha fatto il Real sia l'andata che in gran parte del ritorno, non parliamo del Barcellona, mi portano a pensare lì io sono molto più sicuro, cioè Barça e Real sono ben più forti delle nostre prime 2-3. Fabio, c'è anche un altro parametro però che insomma a me per me è sempre un punto di riferimento. Anche quest'anno Ibrahimovic sta vincendo per il momento, sta vincendo il campionato come ha sempre fatto in Italia, da protagonista totale e assoluto delle squadre in cui ha giocato. Cioè, Ibrahimovic nel Barcellona era un soprammobile. Guarda, Ibrahimovic ha vinto sempre i campionati e non ha ancora vinto la Champions League. Ibrahimovic, io ricordo Mourinho 2-3 volte quando gli fu chiesto ci dice la formazione, lui disse Ibra più 10. E non era casuale questa cosa, perché effettivamente a volte la sensazione che dà Ibrahimovic è che la squadra sia Ibra più 10. Il fatto che lui sia così devastante, cioè che lui dia la sensazione, non dico da solo, ma quasi, di poter decidere le sorti di un campionato, e averlo vinto anche in Spagna quasi nonostante la sua presenza da parte del Barcellona, è un indicatore che il campionato italiano probabilmente è più debole di altri, proprio perché in altri Ibrahimovic non riesce ad essere così devastante. È anche vero che lui comunque nel campionato spagnolo i suoi gol li ha fatti e ha fatto, certo. Però il Barcellona la sensazione è che l'avrebbe vinto comunque in carrozza. Il lato debole di questa medaglia è dato dal fatto che forse Ibrahimovic al Villarreal, al Siviglia, al Valencia potrebbe far vincere al Siviglia, al Villarreal o al Valencia il campionato. Credo che questo non lo scopriremo mai, però è un'ipotesi. È un'ipotesi, grazie Fabio. A voi buona giornata. Chiudiamo questo collegamento. Paolo Lombardi da Genova fa notare che anche in Italia ci sono lezioni esemplari, vedi il caso Sampdoria-Cassano, ed è verissimo. Poi è un caso diverso da quello di Suarez e l'Ajax. Suarez domenica, ripeto, ha morso un difensore ad una spalla, questa immagine, questo episodio, e poi immagine, non è stato sopportato dalla sua società, che lo ha messo fuori squadra automaticamente. Mi sembra un caso ancora diverso da quello Cassano-Garrone, ma per carità, giù il cappello davanti a Garrone e davanti alla voglia finalmente di andare una volta fino in fondo e di non fermarsi sempre a metà strada. Rocco ha chiamato da Potenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senti, le volevo fare una domandina sul Milan. Così come l'ha impostato Allegri, con i tre centrocampisti, come vince in Italia, può imporre il suo gioco anche nelle coppe? Visto il Barcellona, visto il Real, che sono più forti. Direi di no, Rocco. Rocco, direi proprio di no. A occhio, poi naturalmente c'è poi sempre la controprova del campo. E poi dipende sempre da che Europa è. Se è l'Europa di Auxerre, magari sì. Se è l'Europa di... Se è un'Europa più prestigiosa, penso proprio di no. Io direi che questo argomento potremmo affrontarlo domani o dopodomani, ma penso già domani, perché c'era stato un paio di mesi fa un ex allenatore abbastanza celebre che proprio a questi microfoni aveva detto, cioè, ha elaborato una sua teoria sul centrocampo del Milan e sulla non indispensabilità, per usare un eufemismo, di Pirlo. Allora io domani conterei a due mesi data da quella profezia, o comunque da quella valutazione tecnica e tattica, conterei di riportare Giovanni Galeone a questi microfoni e magari di rifare quei ragionamenti dopo un paio di mesi di controprove. Rocco, grazie, andiamo a Como da Franco, buongiorno. Buongiorno dottore, è un po' che non ci si sente, ma la seguo comunque continuamente. Ero in attesa un po' come fa il cinese sul fiume per la mia Juve, e quindi ho detto vedremo gli sviluppi e poi lo richiamo. Io ho notato in queste, se volevo sentire la sua opinione, in queste serate, soprattutto nelle trasmissioni sportive e anche oggi, diciamo delle giustificanti, delle situazioni, delle similitudini di quanto accade all'Inter oggi, simile a quello che accadeva un po' alla Juve di Ferrara, e quindi volevo sentire la sua opinione. E poi ero un po' sinceramente in disaccordo col giornalista di prima che ha detto che era un'impresa titanica gestire l'Inter. Io credo che è più titanico gestire un Cagliari, un Bari, un Genova che l'Inter, ecco, ascolto la sua risposta. Ma per radio dipende dai momenti. In questo momento credo che sia, se non titanico, insomma, comunque un'impresa proibitiva gestire l'Inter, perché oltre a tutte le assenze, oltre a tutti i problemi, a tutte le cose, sei anche nel mirino completamente. Cioè è meno grave gestire, è meno difficile gestire il Bari, perché Ventura credo che abbia gli stessi problemi di Benitez, proprio gli stessissimi problemi, con la differenza, ma anche nei risultati, perché l'anno scorso il Bari ha fatto uno stupendo campionato che equivaleva, non certo ai trionfi, ma equivaleva alla stagione dell'Inter nel senso della positività. Poi ti ritrovi tutti i giocatori che si rompono uno dopo l'altro e sei ultimo in classifica. Però credo che all'Inter sia ancora più dura, perché c'è poi comunque sempre ci sono le conseguenze mediatiche. A proposito di Juventus, Marco Traversi, che è un afficionato del programma, del blog e di tutto quanto questo apparato che fa capo da Tempo di Sport e che non ha mai, insomma, e che è uno juventino ortodosso, scrive: a parità di trattamento anche mediatico, noto con rammarico l'inversione dei ruoli tra Inter e Juventus. Krasic simula in maniera palese, prova TV, due giornate in omaggio, reazione a Juve, prima con forte rumore di unghie sui vetri, poi l'immancabile complotto. Eto'o imita il suo compagno Materazzi, Moratti ammette tagliando corto che sarà dura evitare la sanzione. Peraltro TV e carta stampata avevano dato ampiamente risalto al fatto, anche in questo caso anticipando in sostanza una sentenza che da codice era semiautomatica. La deriva è quella, una Juve molto interizzata, mi spiace davvero. Firmato Marco Traversi. Intervallo, i mercati. Giornata di sanzioni, vi ho detto, delle 5 giornate a Cevanton del Lecce, delle 3 a Detto, ma anche 2 giornate a Kroldrup della Fiorentina e poi una a Lopez del Catania, Burdisso della Roma, Pia del Cesena e Ferreira de Sousa del Genoa. Adesso passiamo, poi torneremo alla vigilia di Coppa ascoltando le voci di Allegri, di Ranieri. Però torniamo alla scorsa settimana e a un argomento che avevamo lasciato in sospeso per ragioni di tempo in compagnia di Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Convocato Marco Bellinazzo qua al capezzale del Bologna soprattutto, perché insomma continuano a scrivere, a intervenire ascoltatori bolognesi di tifo, ma insomma anche geograficamente di territori più in generale, molto ma molto preoccupati per quello che può succedere al Bologna. Allora, se gli devi dare il colpo di grazia, cerca di essere almeno, cioè di attutire la forma. Se invece ci sono margini di speranza, ovviamente te ne saranno grati. La confusione regna sotto il cielo di Bologna ed è creata ad arte questa confusione, ho l'impressione. Proviamo perciò a segnare un po' i vari passaggi e i vari elementi della situazione. Innanzitutto, capitolo stipendi, perché a capitolo stipendi è legata la possibilità / obbligo che la Lega, che la Federazione anzi, sì, penalizzi con 3 punti in meno in classifica il Bologna. Di fatto il termine è già scaduto, quindi volendo la federazione potrebbe già irrogare questa sanzione immediatamente. Attende fiduciosamente che Porcedda paghi questi stipendi, visto che ha promesso di pagarli entro la metà di questa settimana. Io penso che la federazione possa attendere, insomma, gli sviluppi relativi al pagamento fino alla fine di questa settimana, eventualmente poi intervenire la prossima settimana concedendo questo ulteriore spazio a Porcedda. Fin qui il capitolo, come dire, sportivo, sì, tra virgolette, ovviamente. Il capitolo invece penale delle inchieste è intricato, anche perché lo stesso Porcedda, come è noto, si è recato in procura a Bologna denunciando una truffa ai suoi danni per delle fideiussioni che gli sarebbero state promesse, sì, o concesse, che in realtà sarebbero false in base a quello che è trapelato fin qui. E d'altro canto ci sono altre indagini in corso a Roma, anche lì per vicende legate a scambi di soldi o promesse di garanzie che non sarebbero state rispettate. Spuntano qua e là dei mediatori che hanno ricevuto compensi che a loro volta si propongono di andare in procura a spiegare la situazione, quindi è una situazione, dicevo, di piena confusione creata ad arte, forse per impedire che trapeli la realtà di questa vicenda. Sì, scusi, ti interrompo solo un istante, perché io ricordo abbastanza bene la sicumera con cui si era presentato questo neopresidente del Bologna, che per carità ereditava una situazione non brillantissima da un punto di vista societario, non certamente da chissà quali, da autorizzare chissà quali sogni, ma insomma comunque da garantire quel minimo di solidità che c'era stato, sia pure, ripeto, senza voli pindarici in questi ultimi anni. Ora invece stiamo scoprendo che trattavasi probabilmente di avventuriero, da quel che si è letto e si sente sino ad ora. Io lascerei alle due procure di proseguire con la dovuta attenzione le indagini. E dal punto di vista penale vedremo alla fine se Porcedda è la vittima o se è il colpevole. Sì. Se è colpevole, forse non è il solo ad esserlo. Bisogna capire bene i Menarini, quando hanno ceduto le quote, che tipo di verifiche hanno fatto e che tipo di affidabilità si aspettavano da questo signore. Loro hanno ceduto l'80% delle quote, ricordo, prima dell'estate. È chiaro che in una situazione di libero mercato non si può impedire le trattative, le cessioni di acquisti di società, ma trattandosi di società di calcio e della rilevanza che hanno queste società, il vero nodo della questione, a mio avviso, riguarda i controlli preventivi della Covisa o comunque della federazione. È chiaro che chi acquista delle società di calcio deve avere un minimo di solidità patrimoniale. Il fatto che questa nuova proprietà fin da subito non abbia pagato gli stipendi, perché quanto mi risulta non sono stati pagati gli stipendi fin dal primo mese, e Di Vaio ora, che è un po' il fiore all'occhiello della squadra dal punto di vista calcistico, ma si sta assumendo anche il ruolo di guida dei calciatori, che comunque non prendono stipendi da prima dell'estate, starebbe insomma impedendo agli altri di mettere in mora la società, cosa che produrrebbe automaticamente peraltro la penalizzazione. Chiede di attendere un altro mese, insomma, per sperando forse in qualche cavaliere bianco che arriverà ad acquistare il Bologna, perché evidentemente insomma la situazione è davvero critica. Nel frattempo l'ex allenatore Colomba invece la società l'ha messa in, o comunque ha formulato la sua richiesta di spettanze arretrate. E il cavaliere bianco potrebbe essere Sabatini, il patron della Virtus Basket, ha effettuato già un salvataggio sul basket e adesso potrebbe raddoppiare anziché lasciare raddoppiare, tutto deve ancora prendere forma, se non capisco. Teniamo conto, insomma, che però in tutto questo non vorrei dare il colpo di grazia ai tifosi, alle aspettative dei tifosi bolognesi, che qualora in procura chi sta facendo l'indagine si rendesse conto che la società è pienamente insolvente, non ha fondi, non ci sono aspettative, tecnicamente ha l'obbligo di chiedere il fallimento della società con tutto quello che ne comporta. Io credo che in procura ci andranno molto cauti, ma dal punto di vista strettamente giuridico questa è una prospettiva che bisognerà considerare, insomma. Certo. Torniamo brevemente prima di affrontare il prossimo argomento, che è a sua volta di notevole interesse. Torniamo un attimo a questa vigilia di coppe con quello che Allegri ha dichiarato a proposito di Pirlo e di Ronaldinho. Ma a volte le cose da poco, a volte le cose sembrano poco, invece magari dopo vengono fuori delle piccole complicazioni, niente di che, speriamo di recuperarlo per sabato. Fatto allenamento insieme agli altri, si è allenato bene, è a disposizione. Percentuale non lo posso dare, anche perché devo ancora decidere. E anche sabato, quando è entrato con voglia. È normale che star fuori dispiace a tutti, però l'importante è che lui abbia la voglia di riconquistarsi il posto. E anche la vigilia di Ranieri sull'impegno di stasera, praticamente decisivo con il Bayern. Non mi aspetto un avversario dimesso, mi aspetto un avversario con molti campioni in campo, la rosa del Bayern è di tutto rispetto, è vero non trova continuità in campionato, però mi sembra che in Champions League la continuità ce l'ha bella e forte, per cui noi siamo riusciti a vincere a Basilea, però dobbiamo fare ancora 4 punti, per cui interpreteremo la gara per vincerla. L'andata fu una partita molto tattica, noi riuscimmo a contenerli molto bene, non riuscimmo a ripartire come volevamo, per cui tatticamente quella fu una partita ben giocata. I ragazzi stanno in un buon periodo di forma, al contrario dell'altra volta dove ancora non c'eravamo sbloccati, ancora non eravamo fluidi come lo siamo adesso. Mi aspetto una gran bella partita proprio perché sono curioso di vedere questa squadra contro il Bayern che conosciamo. Marco Bellinazzo, il secondo argomento di giornata, e cioè la tessera del tifoso, secondo il ministro degli interni Maroni, starebbe dando frutti sul piano dell'aumento degli spettatori. Ora, poi ti darò dei numeri che mi ha messo a disposizione Franca Piattanida, non risulta. Al momento Maroni ha fatto lievitare semmai gli spettatori di ieri sera di Saviano e di Fazio, perché i dati appena usciti questo dicono. Gli spettatori negli stadi sinceramente ne vedo meno dei 10 milioni che ieri sera hanno assistito invece a Fazio Saviano. Sì, la tessera del tifoso e più in generale le politiche adottate in questi anni dai vari governi, insomma, hanno portato sensibilmente a un calo di quelli che sono gli episodi, con ferite, di episodi di violenza legati a partite di calcio e non solo a partite di calcio, e questo è un dato sicuramente confortante. Questo aspetto invece della moltiplicazione degli spettatori, che spesso il ministro Maroni porta a sostegno della bontà dello strumento tessera del tifoso, viene in qualche modo contraddetto, insomma, da altri dati che vengono forniti poi dalla Lega, in particolare quelli legati all'effettivo riempimento degli impianti sportivi, che invece lasciano molto da ridire, nel senso che gli ultimi dati che ha fornito la Lega, per esempio, ci dicono che ben 13 in 13 stadi meno della metà dell'impianto viene occupato in media, quindi al di là dei big match poi si hanno capienze molto ridotte, afflussi molto ridotti di spettatori. Ovviamente un discorso a parte va fatto per Inter e Milan, che hanno quasi 50.000 spettatori a partita, il Napoli ne ha 40.000, la Lazio 35.000, ma insomma il livello poi in percentuale di riempimento, quindi di sfruttamento dello stadio, visto che dalla voce stadio è l'unica da cui in qualche modo le società possono recuperare dei surplus per migliorare i dati di bilancio, c'è poco da stare allegri. Non risulta. Infatti si parla di dopo 10 partite l'aumento in percentuale dello 0.3, insomma, non mi sembra che possa essere preso questo per un dato positivo, anche perché poi il ragionamento si amplia. Facciamo l'intervallo per le strade. Una buona notizia per i tifosi della Juventus, appena trasmessa da Sky Sport: non c'è nessuna lesione muscolare per Aquilani, solo affaticamento, e quindi un riposo di 2 o 3 giorni supplementare per il giocatore, che però sarà regolarmente a disposizione del Neri. Stamane è tornato ad allenarsi anche Buffon, che ha sostenuto la sua prima seduta di allenamento dopo 4 mesi, poi pare che il giocatore sia uscito direttamente senza aspettare l'arrivo dei compagni, il cui allenamento è previsto invece nel pomeriggio. Sentiamo, in attesa di tornare da Marco Bellinazzo e dalla sua tessera, sua amica tanto, tessera del tifoso, ascoltiamo che cosa Nicola Filippone ha selezionato per il 23 novembre. Sembra ieri. 23 novembre 1988. L'Inter sbanca l'Olympia Stadion di Monaco di Baviera, battendo il Bayern per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA. I nerazzurri, allenati da Trapattoni, si portano in vantaggio con Serena, ma è alla rete del 2-0 che resta nella storia. La realizza Nicola Berti, al termine di una fuga di più di 60 metri palla al piede. L'Inter sprecherà clamorosamente il vantaggio accumulato all'andata, perdendo per 3-1 a San Siro. Si consolerà con lo scudetto dei record, mentre il cammino in Coppa UEFA del Bayern si interromperà in semifinale contro il Napoli di Maradona, che vincerà il trofeo. Nicola Filippone, da buon irpino, mi ricorda anche che oggi, 23 novembre, sono 30 anni dal terremoto in Irpinia, che tra l'altro, ma questo si lega, questa è una delle più grandi tragedie dell'italiana dello scorso secolo, ma si lega anche al mondo del calcio, perché il terremoto colpì verso le 7 di sera, quando per esempio in televisione allora c'erano le sintesi dei secondi tempi delle partite, stiamo parlando di 30 anni fa, e stavano trasmettendo Juventus-Inter, e molta gente in Irpinia in quel momento era nei bar a vedere insieme questo secondo tempo di Juventus-Inter. E tra l'altro c'era grande felicità, mi sottolinea Nicola, proprio ad Avellino, perché l'Avellino, che allora giocava in Serie A, aveva vinto 4-2 con l'Ascoli e aveva fatto gol anche il solito Giuari. La Juventus batté l'Inter 2-1 quel giorno con un rigore di Bredi, un gol di Scirea e un gol di Ambu per l'Inter, pensate. E, vabbè, e poi tutti gli altri risultati, non figura il Milan, perché in quella stagione stava scontando una retrocessione. Insomma, 30 anni da quella tragedia. Torniamo in compagnia di Marco Bellinazzo. La tessera del tifoso, stavamo dicendo, forse uno 0,3% di incremento di pubblico allo stadio, che ovviamente non dà riscontro agli entusiasmi con cui il ministro e il suo entourage parlano di successo di tessera del tifoso che starebbe riportando gli spettatori agli stadi. Beh, basta guardare anche poi le immagini sono anche peggio. Dalle immagini sembrerebbe addirittura che ce ne sia sempre di meno. Il ragionamento legato alle tessere del tifoso deve essere questo: innanzitutto si sta andando verso 1 milione di tessere del tifoso richieste, sì. Ci sono però ancora molti che mi risultano non hanno ricevuta, e una serie di meccanismi legati a questo strumento, come per esempio le corsie privilegiate o preferenziali per entrare allo stadio senza fare troppe code, in molti stadi sono un vero e proprio miraggio. D'altro canto, i divieti imposti dal CASMS alle varie partite sono comunque non inferiori a quelli dell'anno scorso. Evidentemente è un meccanismo che va ancora rodato prima di poter cantare vittoria. Mi segnala dalla regia, dalla redazione, che Vincenzo da Ferrara vuole intervenire proprio su questo argomento della tessera del tifoso. Vincenzo, dica. Buongiorno signor Garantini, sono Vincenzo. Niente, io volevo farle questa domanda. Voi state tanto mettendo sulla piazza questa tessera del tifoso, no, ma guardi, secondo lei società di calcio come la Juventus, coloro che abbiano terminato il loro stadio di proprietà, avranno piacere di avere degli ospiti che buttano gli scooter giù per le gradinate o tirano bombe carta o quant'altro? Secondo me una società come la Juventus, che ha speso fior di quattrini per farsi uno stadio, vorrà vedere anche l'albero genealogico dei suoi ospiti. Cosa ne pensa? Io non penso nulla, se non che non sono certamente uno sponsor della tessera del tifoso, anzi, tre punti esclamativi. Marco? Beh, dico che la Juve avrà come dire, i suoi ospiti paganti, e potrà valutare anche in base alla tessera del tifoso se hanno la fedina penale pulita o meno, e accettarli o meno all'interno dell'impianto. Sicuramente la privatizzazione degli stadi è importante anche per la sicurezza, perché i costi della sicurezza oggi incidono sul bilancio delle società che devono gestire peraltro la sicurezza di impianti che appartengono al comune, di cui non possono disporre in maniera completa. E a questo proposito mi pare ci sia un decreto sicurezza che prevede nuove regole per gli steward. Sì. Tornando proprio al discorso dei costi, per esempio appunto il decreto legge sicurezza, che è entrato in vigore il 13 novembre, prevede una serie di misure appunto legate alla necessità di aumentare il livello di sicurezza. La più famosa o la più citata in questo periodo è la flagranza differita, quindi la possibilità di acquisire immagini televisive e arrestare anche a 48 ore di distanza chi venga riconosciuto autore delle violenze o di manifestazioni, come dire, di criminalità all'interno dello stadio. Peraltro questa misura era stata introdotta, era scaduta il 30 giugno ed è stata riportata in vita da questo decreto. Però, tornando al discorso di prima, per esempio è prevista ora una sanzione da 20.000 a 100.000 euro per le società che impiegheranno un numero di steward inferiore a quello richiesto o quello imposto dai regolamenti, dagli standard. E il decreto sicurezza prevede nuovi compiti, nuove mansioni per gli steward. Non saranno dei pubblici ufficiali, come pure era apparso in un primo momento, come era stato annunciato da Maroni. Avranno semplicemente dei compiti ausiliari a quelli della polizia all'interno dello stadio, e sono state aumentate le tutele, nel senso che per chi abbia tafferugli, insomma, e chi colpisca degli steward provocando lesioni, ci saranno le stesse pene previste per chi commette queste violenze ai danni di un pubblico ufficiale, quindi di un poliziotto. L'unico problema è che dovranno essere riconoscibili gli steward, quindi attenti ad avere la pettorina, perché altrimenti in quel caso le sanzioni per chi danneggia l'integrità fisica di uno steward saranno inferiori a quelli previsti per i poliziotti, quindi c'è questa attenzione nello svolgere le mansioni in maniera accurata, nel rendersi riconoscibile nei confronti degli ultra. Questa è curiosa e carina anche la sua parte. Grazie allora a Marco Bellinazzo, grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione. Vi lascio al giornale radio.